vabbè, se ti va bene come prodotto, che è ideale per queste cose, va più che bene, mi fa voglia. Comunque si vede, c'è una voce un pochettino sonnata, dai, si vede, sei un pochettino spento oggi. Posso fare un uomo che fa, hai capito, perché rimbomba, hai capito? E niente, in fondo sta anche la sera, come diciamo con l'altra, hai capito, non è che più di tanto, però diciamo là, ho visto che la lancetta te la fa andare quando la pugnatore in piazza d'Italia e ognuno ha portato una cosa, quindi perché no? No, oh, diciamo che c'era il palco, giustamente questa banda Bardot, questo gruppo, proprio prima di questo gruppo c'era un altro gruppo che cantava musica dance anni 70 e 80, abbastanza bravini, devo dirlo. E poi c'era questo stand dove regalavano quelle lanterne, e dunque a mezzanotte tutte le persone l'hanno scartato con l'accendino acceso e fatte volare, cioè presente quelle lanterne fatte in carta, e c'era una centinaia, veramente bello. E poi tutti giustamente, chi vino spumante a mezzanotte, hanno aperto tutti e ne vedevi più che tanti che volavano, e la gente cominciava a trincare, no? Per darsi un pochettino più di allegria. E poi c'era, diciamo, la pista di ghiaccio, da ghiaccio, non molto frequentata confronto ad altri giorni, comunque anche lì se volevi divertire ti facevi le pattinate lì nel ghiaccio, e bar giustamente nella zona tutti aperti, e ripeto, una marea di gente impressionante, guardava bene bene veramente, e poi direttamente a casa. Mi sono fatto bene, mi sono divertito, mi sono divertito, hai capito? E niente, io spero questo, sono condizionato fuori, perché non è che io pensavo a un lungo di metà, però ogni anno lo scarica qui, perché poi lui già si diverte, hai capito? Però ogni anno io lo metto per questo motivo qui, hai capito? Non sono qui, quanto mi metto delle cose me ne fa pensare, hai capito? Purtroppo è così, ma diciamo quando uno sta prendendo salute e in qualche maniera si può fare, ma fare che ogni giorno fare molto bene, senza pensieri, senza cose, capito? Poi è un giorno come gli altri. Quello pienamente d'accordo, ma se volevi non avessi chiamato saremmo scesi, se non ti sei coricato molto presto, ma la visita avevamo fatto visita, se ti ha fatto piacere avresti avuto un po' di compagnia, tutto lì, saremmo stati disponibili a voglia. Io ho pensato che tu mi sei quella discoteca ieri notte. No, già, insomma te l'avrei detto, guarda, tale giorno sto lavorando, meno male già. L'ho sempre detto, mica scusate, sto chiudendo perché devo andare a lavorare. No, non hanno aperto ieri, l'hanno fatto lì a Piazza Lessini, negli stand, diciamo, del circo, si sono organizzati lì insieme ad altri gruppi, ecco, altre associazioni, hanno fatto lì la festa, non so neanche se gente, la verità, ce ne sia andato, non ci ho neanche pensato ieri a passarci. Convinto sono andato direttamente lì. No, sono andato in Piazza d'Italia, niente ristorante, niente di niente di questa casa, e poi siamo scesi lì. Due orettine, poi siamo rientrati a casa, e mia moglie e mia figlia, tutto lì, niente di particolare. Per stare lì a casa, mamma mia, ti prende un po' male, almeno a fine anno, porca miseria, là, o in compagnia, o giù, Piazza d'Italia, però me l'abbiamo passato sempre così, ecco, non... Se avessi avuto compagnia, perché non saremmo scesi volentieri? La vita non ci ho neanche pensato a chiedere, però uno pensa che, sai, si diverte, ognuno a modo suo, tutto lì. La vita non ci ho neanche pensato, non credevo, diciamo, che eravate da soli, ecco. Sì, però se la potremmo star mamma, no, non riesco più, capito? E poi, diciamo, che si sente, dopo aver preso, quando non aspetta la mancanza, si sente, come... Hai capito, ma è che su quello che vuoi, però hai capito. E niente, no, ma di solito da altri anni mi rimando a mamare fuori come un figlio da va a suonare, ma qua a suonare sul maschio. Capito? Che tu dici d'accordo, ma e uno, diciamo, si mette buoni propositi e cerca di tribolare un pochettino di più in modo da muovere un po' le acque. Se non fai così, allora ciao, mi hai finito. Cioè, per una cosa e l'altra, quando penso un po' tutti, che quando hanno lanciato, diciamo, queste lanterne, hanno espresso giustamente un desiderio, ma alla fine è sempre